dice che le scuole superiori che vorranno partecipare in questo progetto da qui a giugno, perché no, o a giugno o a luglio ci sarà il prossimo convegno, sempre, a luglio, sempre di sempre su questo Green City Energy, e quindi chi vuole lavorare su questo tema avrà l'appoggio, tutto l'appoggio del comune. Questo cosa voglia dire, non è l'idea. Lui ha lanciato l'appello, poi... E non si sa bene cosa vuol dire. Vuol dire una creare dei gruppi per lavorarci. Sì, una cosa che mi ha insospettito è che lì dentro c'è l'Endesa. Chi c'è? Visto, tra i finanziatori. L'Endesa, L'Endesa è quello che... La spagnola, cioè la sarebbe una... Credo sia è stato noiosissimo. L'Enel spagnola, che però è legata alla costruzione del rigassificatore. Invece loro sono intervenuti per presentare un altro progetto che stanno facendo a Malaga. E... Ma sì, in Spagna. Allora, cioè, mi sa che non ho portato dietro gli appunti che avevo preso sul momento. E per, cioè, loro hanno fatto questo progetto laggiù di città di energia pulita, quindi promuovevano questa cosa qua. Ma voi dovevate vedere, cioè, c'era il sindaco dietro all'Enel che presentava i suoi progetti, i suoi navicelli, sulle cose, tutto lì a seguire. Poi l'unico intervento interessante veramente è stato quello del sindaco di Bolzano. Loro sono già sono bravi. Anni luce avanti. Sì, sull'edilizia. L'edilizia, il piano edilizio, tutto. Tutta una serie di cose. In quel momento, quando lui ha iniziato a parlare, il sindaco si è alzato e è andato via. Una figura. Eh sì, perché chissà com'è. Una figuraccia. Lui ha finito di parlare e il sindaco non era tornato, era lui che doveva fare da. Ciao, buon anno, come stai? Ciao. Bene? Dove ti vuoi sedere? Non vorrei essere incontrato. Un divano. Prendici il divano. No, bene, mettiti là. Dai, no, tanto vedi io poi in forza benzina. Sì, sto rivisto. Sì. Quindi lei stava facendo... Anzi, facciamo una cosa. Abbiamo tre punti, no, all'ordine del giorno. Scuole di crescita, organizzazione della presentazione del libro, autoformazione e poi diciamo vari eventuali. Ah, abbiamo sì. Un'emersa. Allora stabiliamo, dopo primo, questo primo giro così, che ognuno dice le cose che gli preme dire, lei ha parlato e ora tu continuerai con le Pinti Energy, poi dedichiamo mezz'ora a ogni punto. Mezz'ora a ogni punto, nel senso che siamo in 4, mezz'ora diviso 4, un quarto d'ora, no, 10 minuti, sì. No, meno, siamo in 4, 7 per 4, 28, 7 minuti ciascuno diciamo, poi se uno non li utilizza tutti, ricede agli altri, o ricede agli altri punti, ecco, non ricede agli altri punti, l'importante è che li affrontiamo tutti e tre i punti, ecco. Allora, continuiamo con te, che ci raccontavi di Green City Energy. Vabbè. Hai un brevissimo resoconto per lui che non c'era. Sì, in pratica dicevo, ci hanno distribuito all'entrata queste cartelline plastificate, non riciclabili assolutamente, in suo modo, e il badge, insomma, roba inutile, e poi, insomma, finché hanno parlato l'Enel, l'Endesa, il sindaco era tutto lì. Poi quando ha parlato il sindaco di Bolzano, che aveva cose veramente interessanti da dire, cose concrete che possono essere applicate ovunque, il sindaco si è alzato e è sparito. E appunto lei diceva il sindaco di Bolzano. Tra l'altro era coordinatore di quel momento lì, quindi lui doveva esserci per coordinare poi tra un intervento e l'altro, quindi il sindaco di Bolzano ha finito di parlare e non c'era nessuno. No, quindi ha fatto da solo, ha detto vabbè chi doveva parlare dopo di me, vedo che il sindaco non c'è. Pazzesco. E la figura veramente che io... Ma questo si spiega però, perché si spiega? Perché intanto Bolzano all'avanguardia, case passive, edilizia... Ma ha parlato di cose veramente... Sì, un po' tutte le cose applicabili che vengono da casta, sì. Ora, tu hai detto giustamente, Enel Endesa è il sindaco era tutto orecchie, e hanno parlato del progetto che è in corso di realizzazione dei Navicelli. I Navicelli, il canale dei Navicelli, sapete che c'è tutta la storia del rigassificatore di Endesa collegata. Endesa è una delle società che prende parte alla realizzazione del rigassificatore. Ora, questa di Green City Energy, ho l'impressione che sia la foglia di fico su tutto il mondo. Perché? Perché le società che danno vita al rigassificatore, che finanziano il rigassificatore, per essere accettate, perché in un primo tempo il comune di Pisa ha speso un mare di soldi, ha speso tanti soldi per fare ricorso perché non voleva il rigassificatore. Pisa e anche Livorno, ma più Pisa che Livorno, perché sta nel mare tra Pisa e Livorno, no? E per farsi accettare hanno finanziato, cioè c'è stato questo scambio, no? Noi rifinanziamo la ricostruzione del canale di Navicelli che collega l'Arno attraverso questo canale, passa per Camberbi e da sfogo al mare, no? E è un canale che viene reso nuovamente navigabile, cioè era attivo fino a quando non è stato bombardato durante l'ultima guerra. Per cui le navi, cioè le barche che fanno il trasporto fluviale, diciamo, dal fiume passano al canale, attraversano la zona della base e arrivano sino al mare. Ora, dal punto di vista commerciale, ma io molti sospettano chiaramente, visto che passa dentro la base, per consentire collegamenti tra la base e il porto di Livorno, più anche attraverso questo canale, no? Attraverso le chiatte sul canale. Quindi non ricordo quanti milioni di euro sono, ma le società private si sono assunte questo compito. Pisa ha ritirato il ricorso che aveva presentato, il ricorso legale che aveva presentato contro le società che volevano, e ha scambiato, c'è stato questo scambio di merci. Ora, appunto, è sintomatico quello che tu ci racconti, è una cosa da indagare. Ma visto che questa cosa si ripeterà, è un ciale, diciamo, come questo Green City Energy. E a questo proposito faccio un piccolo inciso, cioè se noi come gruppo ogni volta che ci sono questioni importanti, che ne so, fare un esempio, McDonald's, l'ultimo McDonald's che hanno aperto, oppure l'IKEA che vogliono aprire nella zona che è alluvionale, no? Sì. Oppure questioni di questo tipo, cioè se noi come gruppo ce la sentiamo di fare degli interventi, che ne so, nei blog, su Pisa Notizie, ma come gruppo, non come singoli, e cominciare a insistere anche sulle questioni che riguardano il territorio, diciamo, su cui viviamo. Oppure Pisa Notizie, che è questo giornale, probabilmente lo conoscete, no? Che è un blog, diciamo, che ha assunto l'aspetto di una rivista quotidiana. O insomma, altri luoghi. Ma quindi, diciamo, il problema che pongo a tutti è ce la sentiamo via via di fare studi, interventi oculati, cioè non tanto estemporanei, perché di per lì, ora per esempio una cosa, tutto quello che io ho detto è da verificare, da documentare, circostanziare, ci vuole tempo e tra l'altro è impegnativo. Comunque è una cosa che io butto lì, perché però questa è una cosa, avendo fino a luglio per farlo, potremmo prepararlo. Sì. Perché a luglio ci sarà la seconda sessione, bisognerebbe rivedere il programma. Potremmo coinvolgere anche, diciamo, esterni. Tu hai conosciuto Beatrice Bardelli, per esempio. Lei è nel comitato di rigassificatori e lei conosce bene tutta la questione e potremmo farci affiancare da lei, per esempio la prossima riunione. Anch'io c'ero nel comitato contro i rigassificatori. Prossima riunione la invitiamo, la coinvolgiamo, lei ci racconta tutte le sue cose, ci dà. insomma fare anche delle, potremmo farlo anche nella forma dell'intervista, cioè andare a chiedere, farci raccontare e fare un'attività anche di questo tipo, cioè il nostro gruppo potrebbe fare anche un'attività di questo tipo. O che ne so, altre cose, intervenire sulla questione del, guarda, c'è stata l'alluvione, l'alluvione, se ce la sentisce, cioè argomenti che ci scegliamo, no? Sì, magari non possiamo affrontare tutto, però secondo le nostre forze, quello che decidiamo. Questo mi piace perché, come argomento, perché il comune si sta dando un'immagine che non è affatto quella. Anzi, una mascheratura, insomma. Infatti questo, secondo me, più lo denunciamo, è meglio. È. Almeno provarci. Perché mi sembra che amoroso. Io su questo personalmente sono disposto a lavorarci. Su questa storia qui di Green City Energy. Sono disposto a lavorarci e potrei appunto anche coinvolgere terzi o chi di voi, se qualcuno di voi mi dà una mano, insomma, questo per me potrebbe essere un banco di prova anche della nostra uscita a una denuncia di questo tipo. Io personalmente, anche per continuità, diciamo, di questa attività che ho svolto nel comitato contro il rigassificatore, insomma. Allora partiamo sui vari punti. No, io in continuità con questo volevo dire, ma la relazione invece con il gruppo Gesualdi, no? Sì. Voi come la vedete? Perché ho letto quell'email tua, interessante, perché è un po' collegato questo fatto, no? Perché cioè, come gruppo cosa ci proponiamo? Sì, sono d'accordo. E rispetto all'altro gruppo della decrescita che... insomma, che si sta formando, come ci relazioniamo? Questo non so, voi cosa è? Io un po' ci ho pensato, ma voi che dici? Io che è andata a ultimare loro, e quell'email che tu hai mandato era proprio un po', mi sembra, la discussione, no? Il resoconto, sì. Che in sostanza per ora siamo ancora in sì, l'idea è questa. Molto iniziale. In ogni caso, per ora vedo che il gruppo è molto orientato alla filosofia proprio. Cioè, più che alla pratica, per ora stanno proprio cercando cosa fare, di individuare, cioè di parlare di decrescita anche. Tra di loro, chiarirsi le idee a livello proprio. Che noi ci stiamo proponendo. Sì, però forse noi essendo di meno, insomma, cioè riflettere su loro, ad esempio. No, noi ancora la dobbiamo affrontare, infatti oggi ce l'abbiamo sul terzo punto. Autoformazione sull'argomento di crescita, i temi satellite. Ad esempio loro, una delle questioni è. Che conseguenze ci sono per il mondo del lavoro, cioè se io smetto di comprare un prodotto e consegue che tot persone perdono il lavoro, poi come si combinano le cose? Sì. Cioè, approfondire per vedere se la decrescita è veramente una scelta ragionata, ragionata. Un salto nel buio. Infatti. Loro partono un po' su questo tipo di domande. È l'obiezione più seria che poi si può fare, in effetti. Ora, per dirti anche Alfredo, gli ho parlato di questo, ha letto qualcosa. La prima obiezione che mi ha fatto Alfredo Caserosa, il tecnico, è stata proprio questa, motivata anche. Vedo. Vabbè. Tu che dici, vabbè? Collegamenti tra, diciamo, i gruppi. Loro si riuniscono a Firenze, non so quanti, 15. Sì, no, dopodomani. Ah, dopodomani. Dopodomani a Firenze c'è la riunione dei rappresentanti di ogni gruppo che si è formato in Italia. E sono. Ma ogni gruppo di che tipo che si è formato in Italia? Stesso, cioè. ogni gruppo che ha risposto all'appello di Gesualdi, cioè le persone che hanno risposto all'appello di Gesualdi hanno in un primo tempo risposto personalmente mandando i loro dati, poi Gesualdi ha messo insieme i nomi delle persone che venivano dalle stesse città, ha mandato le email a ogni gruppo e ha detto ora organizzatevi tra di voi, vedete se costituite un gruppo, due o tre o insomma come volete e poi ci si risente. E quindi ora ogni gruppo ha risposto dicendo siamo un gruppo di Pisa, siamo tot persone e ci riuniamo. Sì. E a questo, cioè, ora a questo punto hanno deciso di fare una prima riunione per incontrare i capigruppo di ogni. Quindi questa è una cosa, ce ne saranno un respiro nazionale, diciamo. Allora se è così, io non sapevo di questa, io pensavo fosse una cosa solo qui locale. Allora ha assunto la caratteristica, diciamo, che il Movimento in Italia sulla decrescita a questo punto si sta dividendo in tre. O perlomeno sta nascendo. Diciamo, l'appello di Gesualdi era più che altro generalista, non era Io ce l'ho qui. Riguardante la decrescita non viene citata neanche, ma non c'è la parola decrescita. No. Nel documento iniziale che manda i vari soggetti. E qui a Pisa ha preso un po' piede il tema della decrescita, anche sotto la spinta di gente di casa, penso adesso. E sarebbe curioso vedere a che conclusione sono giunti gli altri a livello nazionale, quanti sono, a che punto sono arrivati gli altri, perché sta appello è di giugno, mi sa. Non mi ricordo quando è nata questa storia. 14 settembre. Ah, 14 settembre. Quindi sarebbe anche interessante andarci, volendo, tanto sono... Tu dici a Firenze? Sì, quando io so i dati. Dopo domani? Sì. Dopo domani, domenica. Che orario non me lo ricordo, a casa ho ricevuto l'email con la cartina, chi parteciperà, insomma la cartina con tutti i dati, l'indirizzo. Mattina pomeriggio? Mi sembra pomeriggio, perché così sarà detto, così fa. Però non ho controllato perché... Ma qualcuno di voi può andare? Col fatto che io non ci posso andare. Io potrei fare un salto. Tu potresti fare un salto. Da solo mi metto un po' in croce, però... Metto un po' di tristezza. Sono arrivato l'altro giorno, quindi... Sì, questo viaggio. Magari se riesco a coinvolgere qualcun altro ci vado, magari. Ma è la mattina o il pomeriggio? È la mattina. Tu sai a che ora è? Mi sembrava di pomeriggio, però devo controllare perché non ho riguardato. Oggi ho ricevuto la mail ma non ho ricontrollato. Ad intuito dovrebbe essere tutto il giorno, se tutto a livello nazionale. Sì, è facile. Magari iniziano alle 10. Certo. E dove lo fanno a Firenze? Non ricordo. Non ho guardato bene. Ho ricevuto i dati. Comunque, se non riusciamo ad andare, ci sarà un resoconto che loro fanno, insomma, qualcosa per seguire. Per il gruppo di Pisa ci va Giorgio Carpi. Del Centro Nuovo Sviluppo. E portavoce di Gesù. Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Vabbè, allora. Quindi tu dicevi, non è in ogni caso... un ulteriore troncone del movimento della crescita, no? No, è un lavoro su piccola scala, cioè piccoli gruppi locali che iniziano a pensarci. Ma i capisaldi quali sono? Che avete detto? L'appello, se volete, è questo, ma io ve lo lascio leggere, perché io se devo leggere l'italiano non posso. Se... No, sì, è troppo piccolo, perché era stampato così, questo è l'appello. Ma vedete che te ce l'hai visto. Non me lo faccio, però, cioè, faccio una premura. Ok. Poi me lo devo copiare e ingrandire. Ho letto probare. Allora, se anche tu sei convinto che la triplice crisi economica, sociale, ambientale impone profonde trasformazioni di sistema, allora questo messaggio è per te. E l'invito ad aderire ad uno dei gruppi di discussione che stiamo cercando di far nascere in ogni parte d'Italia. Il tema è come costruire una società capace di garantire il ben vivere di tutti, nel rispetto dei limiti del pianeta. Un obiettivo ambizioso ma non impossibile. Mi fido di quello che hai segnalato tu. La conversione ecologica potrà affermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile. L'unico modo per fare breccia è dimostrare che è possibile coniugare sobrietà con piena occupazione e sicurezza per tutti. La gente ha bisogno di... Quindi il tema del lavoro che ritorna. Del resto non si parte da zero, mentre alcuni hanno riflettuto e scritto in proposito, altri hanno sperimentato su piccola scala. Le loro suggestioni ed esperienze possono costituire delle basi di partenza. Aggregazione di poche persone che individuano i nodi, li affrontano, ipotizzano soluzioni applicabili a piccola, media e grande scala. Partecipazione dal basso. Comunque, sembra abbastanza un buon riassunto, diciamo. Io poi ho visto ultimamente su Pisa Notizie sono comparsi due interventi di Gesualdi. Uno che analizza la situazione della piena, non della piena, dell'alluvione. Sì. Lui dice essenzialmente si rifà al cambiamento climatico, ma io su questo per esempio sono meno d'accordo. Il cambiamento climatico in realtà i tempi sono lunghi, cioè, no, no, nel senso che sì, va bene, è vero che il cambiamento climatico ha inciso, però nel caso proprio del Serchio eravamo un metro e mezzo sotto lo straripamento. E lì è proprio l'argine che ha ceduto, magari. Magari ci sono, cioè, c'era infatti un altro intervento di un responsabile del bacino dell'Arno, non mi ricordo, comunque lì su Pisa Notizie che dice ma invece ci danno sempre meno fondi, la manutenzione di questi corsi è sempre più trascurata, superficiale, eccetera, eccetera. E insomma il risultato può essere questo. E poi c'è un altro intervento che è comparso oggi su Pisa Notizie di Gesualdi, che lui proprio tema, cioè cita, parla di decrescita criticando il discorso di inizio d'anno del presidente della regione toscana di Martini, come si chiama Martini. E lì lo critica dicendo espressamente, diciamo, sempre nel solco della tradizione, dobbiamo renderci conto che la crescita in se stessa, insomma tutti i discorsi, dobbiamo cominciare a pensare in termini diversi, e lì proprio usa la parola decrescita. Però lì è lui come singolo che interviene a criticare questo discorso del Presidente della Regione Toscana. Io non so come ci possiamo rapportare, perché in realtà ritorna allo stesso problema, come ci rapportiamo al movimento della decrescita felice. Cioè, se anche noi riflettiamo su questi temi, chiaramente sì, possiamo potremmo. Anche noi dire che siamo un gruppo che si è formato, anche se si è formato prima, comunque che può benissimo... di conservare una sua autonomia e interagire sia con loro che con quello della ricrescita felice, che con quello. Ma infatti non questo non è vietato. Sì. Cioè potremmo essere. Poi se a un certo punto decidiamo di confluire, cioè, da una parte. Il punto è se abbiamo il tempo di farlo anche. Anche. Cioè, comunque questo comporta. Certo. Del tempo. E poi ritorno ancora. Io per andare a ogni incontro loro devo, cioè per me è un sacrificio, perché loro lo fanno di sabato, e anche se lo facessero un altro giorno per me è comunque un sacrificio, perché a questo punto dedico già abbastanza tempo a queste cose, diventa difficile. In ogni caso, diciamo, anche per noi c'è un problema di identità non risolta, no? Nel senso che anche noi dobbiamo ancora un po' capire chi siamo, cosa intendiamo fare. No, qui parlano di gruppi di riflessione, niente di... Certo, potremmo anche coincidere con noi. Noi siamo un gruppo di, un gruppo di riflessione. Sì, però c'era l'esigenza che è emersa, che oltre a riflettere forse bisogna riflettere per fare qualcosa, fare no? Qualcosa. Perché altrimenti va bene questo. Poi, però, non lo so, poi ognuno magari ha dei propri tempi, no? Penso ad esempio alla Margherita Brunori, probabilmente lei aveva già meditato abbastanza e voleva capire già che cosa è entrare nella, nella fase così più attiva. A me questo tempo è servito per leggere, per capire, quindi a me non sembra personalmente di aver perso tempo, però proprio per avere visibilità, darsi un obiettivo visibile e visivo è il caso forse. E poteva essere, ora io oggi pensavo a Boschini, no? Ora ne sono venute fuori altre cose, però che poi non è che si escludano, no? Sono diverse, sono. Sì. Tu che dici, Roberto? A tal proposito, diciamo, i punti sono tre. Diciamo, ne aggiungiamo il quarto per quanto riguarda questo, la fase di pubblicazione, magari collaborando con qualche giornalista, cioè se raggiungiamo entro luglio non bisogna mettersi sopra questo argomento, diciamo. Cioè, ma come fase di pubblicazione cosa intendi? Quello che hai detto tu poco fa, per quanto riguarda i riclassificatori, questo rapporto sotto banco. No, quello di intervenire, diciamo, nel dibattito pubblico su temi locali. Intervenire come gruppo. Sì. Questo dici? Sì, sì, vabbè. Si può... Sì, si può. Infatti, questo possiamo discutere. Cioè, vogliamo pensare sugli argomenti di cui vorremmo occuparci o già abbiamo le idee chiare? No, cioè dobbiamo pensarci. Io no, non credo che dobbiamo avere fretta. Dobbiamo avere continuità. Mm. Ma non fretta. Fretta non ci serve. Ne dobbiamo fare tutto insieme, insomma. Tra questi quattro argomenti, poi cosa scegliereste per primo? No, soltanto essendo soltanto in quattro, cioè qui non è che si può giochicchiare sul perché dobbiamo scegliere tra questi argomenti? Cioè, quattro argomenti quali sarebbero, scusa? Questi lì dice degli ordini del giorno. Ah, dell'ordine del giorno, pensavo gli argomenti su cui ho pensato già. Dunque, allora. Questi argomenti qui io credo che intanto già ci riempiono tutto il calendario dei nostri appuntamenti e tutto ciò che abbiamo messo in cantiere, perché scuola e decrescita in pratica l'abbiamo sì, già messo in movimento tra me e lei. Sì. E ora quindi magari ora facciamo sì, un resoconto brevissimo, sia io che te, sì, su questo argomento qui. E questo è già il moto per conto tuo, perché riguarda me, lei e Nicola, anche se non c'è. Sì. E poi... Devo capire meglio come. Sì, sì, allora, vabbè, allora come questo va, lo affrontiamo in maniera sì, più. Poi, secondo punto, organizzazione del libro Anticasta di Boschini. Questo lo discutiamo, ora vi dico cosa ho pensato da me su questo punto. E poi lo discutiamo come gruppo. Infatti terzo, pensavo su questo di non impegnarmi. Sì. Cioè, e vi impegnate voi, perché vi vedo, cioè c'è poco da fare più. Io ci sarei andato, capito? Prendevo il treno. Caro signor Boschini. Terzo, questo qui credo che sia un argomento per noi trasversale, cioè autoformazione sull'argomento di crescita e temi satelliti. Questo è trasversale, nel senso che noi potremmo. Credo che lo dovremmo affrontare un po' anche al di fuori delle riunioni di questo tipo, nel senso che potremmo fare un primo incontro in forma laboratoriale in cui cominciamo, cioè inneschiamo, diciamo, questa ricerca nostra e poi facciamo anche l'esperimento tra di noi di condurlo via rete. Via rete nel senso, però lo dobbiamo innescare in presenza. Poi ci avremo delle fasi in cui lo continuiamo via rete e poi torniamo ad affrontarlo. Per affrontare questo argomento io vi propongo di individuare interrogativi di fondo intorno ai temi della decrescita. Il primo è già venuto fuori negli scorsi giorni. Cioè, cosa intendiamo per decrescita tra di noi? Cioè, chiarirci punti di questo tipo. Un altro è venuto fuori oggi, relativamente a... cioè, il rapporto tra decrescita e lavoro. E anzi, nei temi che ha posto lei, anche in termini di posti di lavoro, non tanto lavoro in generale, posti di lavoro, insomma, quindi questo lo vedo come un argomento trasversale, di approfondimento continuo, che noi dobbiamo fare anche nei temi della decrescita se ne vogliamo occuparcene. Il modo possono essere tanti, per esempio, non so, esce qualche pubblicazione, ce ne sono tante che cominciano a uscire, e allora magari c'è lui, lei, eccetera, che legge il testo, legge il libro e fa una relazione al gruppo. Cerchiamo i modi, insomma. Questi altri due punti, cioè, è questo qui, organizzazione e scuola, cioè presentazione del libro, questa qui lo vedo come la nostra prima uscita pubblica. Presentazione del libro Anticasta di Boschino, ne abbiamo parlato molto, semmai qui si tratta decidere se vogliamo insistere e come, cioè cosa realizzare. Ora io su questo ho delle cose che vi dico subito, c'è la saletta, quella della provincia, che sarebbe disponibile, quella da Re Concetto Marchesi. Sì, ho capito. E lì abbastanza in centro, e c'è la possibilità di avere anche lo schermo, cioè proiettare per esempio il DVD, proiettarlo, com'è. E poi ricevere Boschini. Inizierei proprio con Boschini. Chiaramente la cosa che noi dobbiamo fare per organizzare l'incontro, oltre a prendere contatto con Boschini, lui è collegato, l'altra volta ce l'ha contato via Skype. Tu ce l'hai Skype? No. Te lo devi fare. Io sono molto lento. Quando abbiamo una data e ci siamo accordati, ci penso io a parlare con quelli della provincia, la cosa principale che dobbiamo fare è trovare i nostri interlocutori. Oltre che rivolgerci a tutto il pubblico, insomma a tutti, trovare i nostri interlocutori e trovare i luoghi, diciamo, di diffusione dell'iniziativa. Quindi, vabbè, i primi che vengono in mente, chiaramente sul gas, su Pisa Notizie, quelli che abbiamo detto l'altra volta, cioè gli amministratori dei comuni limitrofi, dei piccoli comuni e così via. Capire, insomma, qual è il parco dei... E abbiamo detto che può essere primavera, dopo Pasqua. Quello può essere il momento, ma soprattutto qui si tratta di organizzare, cioè di capire a chi rivolgerci e avere, concordare una data tra quelli della provincia e Boschini che viene. Primo, chiaramente è Boschini che ci dirà, io da tot trovatemi, cioè questi sono i giorni che vi do disponibili, poi vado alla provincia e vi dico, la provincia non credo che ci siano grossi problemi. E ci facciamo dare una saletta, se siamo d'accordo su quello, se ci sono altri proposte di altre sedi, insomma le tiriamo fuori, diciamo, se pensiamo che altre sedi possono andare. Una che ho, sicuramente mi hanno detto quella è disponibile, è questa della provincia. E quindi riguardo a Boschini e la presentazione dell'Anticasta, questo io lo vedrei come un primo passo. Dopodiché dovremmo continuare con l'Anticasta, perché? Perché ci sono tanti altri amministratori che possiamo invitare in puntate successive, anzi dobbiamo creare un'aspettativa, dire intanto abbiamo fatto venire Boschini, ma poi ci interessa far venire tanti altri coinvolgibili, insomma, che vengono a raccontarci cosa stanno facendo nei loro comuni. E registrare tutti questi appuntamenti, video registrare, in maniera che anche chi non è presente può usufruire di quella puntata. E io la sto sentendo. Vabbè, intervistarlo, poi bisogna vedere. Ecco, viene Boschini e viene intervistato? No, viene l'incontro. Com'è l'incontro? Sì, l'incontro. Parla lui, sì. Io avevo pensato, la sala di proiezione è proprio proiettare il DVD del libro. Dopodiché c'è Boschini presente, e tutta la gente che sta in sala bisognerebbe partire con le domande rivolte a Boschini. La proiezione del DVD è autorizzata. Sì, che lui, sì, poi c'è lui lì, non credo che ci siano problemi. Il luogo non si può proiettare, tu che dici? Il DVD di Boschini è quello del libro. Io non andrei così avanti, facciamo un giro su questo argomento, vediamo le proposte, chi lo può fare, i dubbi che uno ha, per esempio lei, no? Che dubbi ho su questo? No, ma aspetta, no, diciamo, l'idea però era questa, proiettiamo il DVD, proiettiamo il DVD, Boschini è lì presente, ci sono vari interlocutori possibili lì presenti, ora rispondo, scusate, devo spegnere. E poi si dovrebbe aprire il dibattito con Boschini come interlocutore, questa come prima cosa. Boschini qual era? Boschini è poi il presidente di tutti. Ah, il presidente. Lui era di... aspetta, Boschini è di... di Colorno. Si chiama Colorno. Non è piemontese. Mi sembrava... Poi Emiliano. Emiliano. Sì, è l'associazione comune di... Sì, a parte comunque quello di... mi sa che è un consigliere, ma... è stato... Sì, è consigliere. Di questo comune. Sì. Che tra l'altro si è visto anche la prima notizia. Prosegua. No, io ho finito. Ok, sì. Quindi una proiezione, poi sì. Il dibattito seguente con l'autore. Sì, cioè non dare subito la parola all'autore, ma dare la parola, diciamo, organizzata, nel senso non dare la parola, vuole se la prende per il tempo che vuole. Cioè, diciamo, facciamo un giro tra i presenti, presente Boschini, di tutte le domande, perplessità, eccetera, che possono venire fuori. E poi diamo la parola a Boschini che risponde. Daresti un tempo ogni intervento del pubblico? Sì, cioè vedere quanti siamo e suddividere il tempo a disposizione tra gli interventi del pubblico e quello di Boschini. Però iniziare dal pubblico, non da Boschini. No, è stato abbastanza preciso. Secondo te non ci saranno problemi per quanto riguarda il posto? C'è da essere associazioni riconosciute? Tu hai qualche maniglia, diciamo, in Calabria? In Calabria, qualche accordo sottobanco, qualche conoscenza strana? In provincia? In provincia, sì, conosco... conosco lì in provincia, perché prima me l'ho rivolto alla, c'è la biblioteca provinciale. La biblioteca provinciale, conosco una persona che è la presidente lì della biblioteca, mi ha detto, dice, guarda Francesco, perché loro l'ho conosciuti quando abbiamo fatto la sezione dedicata a Dolci. Mi ha detto, dice, guarda, in provincia non ci sono problemi, si fanno queste iniziative, anzi, ben venga, se volete noi possiamo aprire la biblioteca provinciale. Però altri studi possibili, sì, potrebbero essere, appunto, se l'ha detto la... Ma si possono indagare queste, l'altra volta se l'ha detto la Limonaia, che è carina come sede. Oppure la biblioteca comunale, ma la biblioteca comunale so che nella sera più o meno ci sono problemi. Non lo so, sono tutte cose da indagare. Okay. Sono più in centro queste sedi qui. La Limonaia posso... parlare io con la Volterrani, no? Cioè quella di Elena Volterrani. Sì. Che dico? Posso, sì. Sì. Vediamo come reagisce. Vediamo come anche reagisce. Anche lì c'è il proiettore, c'è tutto. Sì. E c'è la possibilità di spostare le sedie, fare dei cerchi. Se sì, per la prossima volta vi impegnate a chiedere la qualche parte. Okay. Sì, se, sì. Se sì. Ci chiedo, vedo come reagisce. Se questa sì. Mi sì. Sì. Allora, te chiedi per la giornata, io chiedo per la... Io chiederò a Boschini per questa proiezione. Se ci sono no. Diritti della SIA, che ne avevo un dubbio, a parte vabbè, questo fatto proprio importante, non è troppo lungo tutto il DVD? Quanto dura? Un'ora e mezza mi sa. No, ci metto davvero. Se non un'ora e mezza. Forse pure di più. No, davvero. Sì, non ho nemmeno visto tutto. Quindi diciamo, la prima. No, la prima cosa tecnica è lo stato. Tutto no. l'incontro dovrà durare 2 ore, 2 ore e mezza. No, la cosa è bella perché... Allora dovremmo fare un montaggio. Fare un montaggio, alcune cose. Fare vedere le cose che riteniamo più significative. Più di 20 minuti dura, guarda, ora non so se 3/4 d'ora. Certo, se fosse fino a mezz'ora va bene. No, ma durava di più, io l'ho guardato solo metà e era forse 40 minuti. Ma allora diciamo così, che potremmo farne un montaggio, ma al massimo mezz'ora di proiezione. Cose che riteniamo più salienti, chissà dove l'ho messo. Ma forse è meglio. Ma vediamo, via. Comunque al massimo mezz'ora diciamo, che dici? Certo, se dura 1 ora e mezza ci pigliamo tutto il tempo, non va bene. Quello nel caso in cui si volesse fare, diciamo, senza Boschini, senza nessuno di loro, allora copretta, però, tutto però diventa insomma, no. Cioè invitare Boschini e proiettare non ha senso proiettare il video un po' lui, per sì tanto vale per diciamo accelerare e introdurre chi è un po' fuori, cioè vedere il video ha una certa efficacia nel far vedere le cose. Però ecco, semmai possiamo proporci di montarlo in maniera che si fa vedere in meno tempo le cose più importanti, che riteniamo che siano più importanti. Un montaggio. Chiaramente dobbiamo chiedere a Boschini stesso. Ma io farei questo se possibile con Boschini stesso, cioè assieme a lui scegliere le parti che per lui sono più peculiari e presentare i vari spezzoni, lui, come se fosse una presentazione di una relazione, di slide, una cosa del genere. Cioè rompi l'incantesimo della proiezione mediatica. Quindi stai proponendo un'altra cosa, un po' diversa. Cioè fermarlo ogni tanto e Boschini che spiega, diciamo, più in dettaglio, approfondendo quegli argomenti, e magari se lui conosce la situazione pisana, creare dei collegamenti in corso, no? Cioè questo presuppone un pubblico che sta zitto. E ci sono due che parlano, il video e il Boschini. No, questo nei 30 minuti. Nei 30 minuti. Quindi, però limita la visione del video. Sì. Limita un po' la visione del video. Va bene, questa è un'altra possibilità. Sì, io preferisco la prima, sinceramente, personalmente. Cioè proiettare diciamo, un riassunto del video. Sì, un montaggio in cui, tra l'altro, secondo me è giusto che si sia noi a scegliere le cose che ci appaiono più importanti, quei 30 minuti, quelle che ci sembrano più efficaci, e poi raccogliere le perplessità, i dubbi, le domande del pubblico. E dopo è Boschini che dovrebbe essere in grado di corrispondere un po' al pubblico, dire ma questo siamo sicuri, ma che problemi hanno trovato gli amministratori nell'affrontare questa cosa qui. Io la vedrei così, perché altrimenti in quel modo lì è Boschini che un po' cerca di presentare, guida e anticipa le possibili obiezioni, invece le obiezioni, le perplessità, eccetera, eccetera, devono avere campo libero. Infatti devono essere la prima cosa che suscita il video. Anzi, dobbiamo chiedere espressamente al pubblico e dobbiamo dire esplicitamente al pubblico cos'è che non vi torna, cos'è che vi lascia perplessi, cos'è che vi sembrerebbe bello ma poco realizzabile dalle nostre parti. E così via. Cioè dobbiamo chiedere al pubblico esplicitamente di tirar fuori tutte le perplessità, pregiudizi, eccetera, eccetera, che possono venire fuori. In maniera che poi nel video è sicuramente possibile tagliarlo, perché ci sono tante cose che sono applicabili nei piccoli comuni, che ne so, raccogliere la spazzatura con l'asinello, è chiaro che questo è inutile farlo vedere a Pisa, perché non è una situazione che mattina la potremmo prevedere. Quindi possiamo tagliare un sacco di cose che si applicano ai piccoli comuni, ma non a Pisa, ad esempio. Anche se avessimo presenti amministratori di piccoli comuni, allora magari potrebbe essere interessante, anche per quel motivo. Non so, a Lorenzana sono 2000 abitanti. Infatti. Quindi è una cosa diversa. Ok. Tra le due cose non lo so, io non so dire qual è meglio, cioè qual è meglio. No, vabbè, ci penso. Perché ci sono degli aspetti positivi sia in quello, nella modalità di presentazione che dicevi tu. Non lo so, mi sembra. Sì, lui sta lì a parare i colpi, no? Come viene questa presentazione? Me la devo un po' immaginare. Perché nel modo che propone Roberto, perlomeno si conosce un po' prima, cioè il pubblico sa con chi ha a che fare, perché altrimenti questo è l'uomo muto, si vede il video e poi risponde alle domande. Insomma, è un po' questo. Che... Sì, un po' di domande da parte del pubblico potremmo provare a immaginare che tipo di domande vengono fuori. Sì, no, è proprio come tempi, si vede questo video, sì. magari lui ci presenta, sì, lui si presenta, ognuno presenta, presentare come presidente dell'associazione Comuni Virtuosi. Chiaramente però si sta il video, si vede il video. Le gente che sta in sala, c'è chi sa chi sono i comuni dell'associazione Comuni Virtuosi, c'è chi non lo sa. Chiaramente chi non lo sa può rispondere il video in parte oppure può formulare una domanda ben precisa, ma cosa sono questi comuni virtuosi, come sono nati, come si aderisce, cos'è questa premiazione che si vedrà nel video, eccetera, eccetera. Come sta crescendo questo movimento, quanti sono gli aderenti attuali, come sono distribuiti in Italia e così via. Su questa modalità sì. Poi cioè dipende molto poi dal pubblico. Sì. Ma è appunto, io direi che gran parte del nostro lavoro è riuscire a portare lì in sala il pubblico giusto, ecco, cioè gli interlocutori, non il pubblico, non è che c'è. No, capito. Però diciamo è uno spreco. Creativo, bello. È uno spreco se a un appuntamento del genere non riusciamo a portare. Io ritengo importante per esempio gli amministratori dei piccoli comuni. O riusciamo anche semplicemente a invitare, poi magari non vengono, gli amministratori pisani più sensibili, no? Ci possono essere, no, però li invitiamo lì, tra il pubblico, non è che li dobbiamo dare poi, però è importante che ci siano, perché chiaramente è una proposta a Pisa, al comune di Pisa, di aspirare a essere un comune virtuoso. Nel mezzo di tutte le contraddizioni, tipo quella che è venuta fuori oggi, no? Vabbè, ma non c'è mica solo il sindaco, no? Appunto. Sì, cioè. Diventa anche la proposta politica, insomma. Quindi su questo punto allora ci muoviamo in questo modo. Vabbè, tu chiedi per la sala, sì, io chiedo per questa. Sì. Il periodo potrebbe essere, abbiamo detto, fine aprile, sì. E quindi lui sonda le disponibilità dei boschini. E poi cerchiamo di mettere tutto insieme. E tutti noi cerchiamo di individuare gli interlocutori, sì. E appena ci abbiamo delle date raggiungerli per fare degli inviti e per rinnovare gli inviti. Nel modo, diciamo, più economico possibile, senza che usiamo posta elettronica, diffondiamo la cosa. E poi vedremo se, perché anche qui c'è come fare anche un manifesto, qualcosa, insomma, da attaccare in giro. darsi che poi non sia... Quello costa, però. Quello costa, infatti. Vedere come se troviamo una soluzione per fare anche un manifesto, se ci può aiutare qualcuno. Che non andrebbe fatto. Andiamo a te. Ah. O chiediamo... A te dici per la parte grafica. Per la parte grafica. Ah, lei diceva invece che costa la stampa, non tanto. Ah, stampa. La stampa, certo non è. Poi il grafico, se ci spiegare il lavoro è un costo. Sai che c'è, la provincia magari. Sì, però dovremmo, il problema che. Se è la provincia. Anche aggiungi questo, le cose da chiedere. No, e questo ti ricordi se ne era discusso, no? Cioè noi come associazione non siamo. Se non è riconosciuto l'associazione. Sì, non siamo chiedere patrocino, non abbiamo chiesto. Se ci facessimo riconoscere come associazione in maniera ufficiale, chiediamo il patrocinio della provincia, allora la provincia in una situazione di questo tipo non ci fa pagare il bollo di affissione, ci aiuta finanziariamente anche per produrre i manifesti, anche per l'affissione. Comunque diciamo, se si volesse fare questa cosa, diventare un'associazione riconosciuta, noi prendiamo il modulo. Il movimento della decrescita felice, lo completiamo, paghiamo 100 sacchi, diventiamo un'associazione riconosciuta e ci togliamo questo impiccio. Che io direi che è una soluzione semplice questa per farlo. Piccolo sforzo, significa aggiungerci in quel movimento. Ci scriviamo lì senza mettere a scrivere. Magari ci aggiungiamo. Altrimenti dovremmo scrivere tutto una. Sì. Uno statuto, una... Ci aggiungiamo pure il patto della non violenza e della maieutica che dicevi tu, i principi dolciani, se li conoscete, li condividiamo. Per me sono sacrosanti, quindi. Sì, ma loro magari sono. Magari si può discutere di questo. Sì, questo. Questo secondo me si può fare benissimo. Significa iscriversi appunto in un movimento nazionale. Esatto. Fare tutti i vantaggi ed eventuali svantaggi del sì, caso. Nel senso che poi bisogna anche prendersi la briga di essere presente alle riunioni che fanno i vari circoli per la decrescita e così via. Insomma. Sì. Cioè, bisogna anche chiedersi quanto siamo in grado di corrispondere al movimento nazionale, perché iscriversi lì non è tanto, significa soprattutto chiederci quanto siamo in grado di appartenere corrispondere, che altrimenti facciamo un numero e basta, insomma, loro hanno delle, poi vogliono, insomma, a parte quello, vogliono sapere quello che facciamo, mi sembra. Due righe ogni tre mesi? No, scritto, sì. Due righe proprio. Non è produciamo i verbali di ogni riunione, sì, possiamo mandare quello. Sì, c'è poco di vincolante. Sì, puoi andare agli appuntamenti nazionali, anzi può essere... Comunque sarebbe una buona cosa, perché ci apriamo nei confronti degli altri, delle esperienze... Questo però è sì, e allo stesso tempo buone, mi pare... Buone, giuste, sbagliate che siano, però è sempre un'opportunità in più che sia. Sì. Semmai ci allontaniamo, questo non fa mai male. Tra l'altro... Beh, io conosco personalmente Pallante, di cui ho enorme stima, anche lui l'ha conosciuto. Anche alla mano, c'è uno come... Sì, e poi per noi sarebbe importante conoscerlo, farlo venire. Insomma, se prendiamo questa strada della decrescita felice, quello può essere anche il secondo appuntamento. Può così più facilmente aderire, no? Allargare, perché anche quest'altro, il fatto che noi siamo quattro, presenta degli aspetti positivi, secondo me, perché insomma si trova sempre un accordo, è difficile. Non so qual è il limite, secondo voi, di essere pochi, di avere poca manovalanza poi, forse proprio questo, no? Quindi è anche vero che come si partecipa a un'associazione del genere, come si invita qualcuno, secondo me non inviti così come a una festa, se vuoi vieni e porta chi ti pare, no? O no? La questione del limite è fondamentale, diciamo. Un conto è la conoscenza via internet, via libri, un conto è instaurare il meccanismo comunicativo faccia a faccia con le persone che hanno vissuto dal vivo delle difficoltà, parlando con lei, un conto è andare via mailing list e vedere come c'è il fatto delle prenotazioni, un conto proprio incontrare tutte le difficoltà tecniche, essere nel camioncino, là, un po' seguito. Cioè uno non se le immagina queste cose andando su internet oppure vedendosi video o documentari. Lo vede come uno spettacolo, come un'isola felice dove le cose funzionano, sono stati bravi, però cioè, coevolvere è proprio interazione fisica, parlare con le persone. Se vuoi questo è uno dei possibili. Comunque sì, noi siamo quattro, ma quattro come gruppo ora, nel senso che ci siamo stabilizzati, siamo qua. A parte c'è Nicola. Sì, abbiamo anche i simpatizzanti. Sì. E in ogni caso, non so, da quattro potremmo diventare sei, però insomma se questo, io non credo che sia un limite, nel senso che non so se riusciamo a portare avanti a scuola qualcosa, se riusciamo a fare appuntamenti pubblici, se riusciamo a far sedimentare anche il lavoro che facciamo, nel senso che la riunione con Boschini, se la video registriamo, rimane in rete, per esempio, e fa parte di tutto quel patrimonio che si accumula in rete e gira. Non so se diventa un video YouTube o una serie di video YouTube, quelli girano e diventano patrimonio, diciamo, di tutta la gente che si occupa, che ricerca intorno a queste cose. Lui stesso c'ha il suo blog e ci si mette l'incontro che ha realizzato a... Nel senso che io credo moltissimo nella piccola scala, cioè nel locale, e credo allo stesso tempo che bisogna agire su più piani. Ora, se noi come piccolo gruppo riusciamo ad agire localmente e poi avere anche questo... lui proponeva prima, facciamo parte del movimento della decrescita felice, significa che la nostra specificità, cioè tutto ciò che noi riusciamo a... lo portiamo poi nel movimento nazionale. Prima lui citava appunto questa particolare modalità di relazione che è quella della maieutica di Dolci, e questo può essere un contributo che se noi sviluppiamo lo portiamo su scala nazionale, per esempio. A quel punto lì è quello che siamo in quattro. Però quando se riusciamo a far diffondere qualcosa, non è un limite. Poi siamo quattro noi come gruppo, ma contemporaneamente ci sono i gruppi di gesuati, ci sono gli altri circoli, cioè ci sono in questo esatto momento magari ci sono tantissimi altri gruppi che si uniscono intorno a temi di questo tipo. Cioè, no, non credo che sia il quanti siamo, cioè, tra l'altro proprio lì per fare un circolo bisogna essere un minimo di cinque. Questo credo sia indicativo, insomma, un minimo di 5, cavolo. Cioè, in 5 si può fare già. No, ma io condivido questo discorso della che essere pochi o essere soli non vuol dire poi essere insomma solitari, no? Non vuol dire essere isolati. Non vuol dire essere isolati, lo condivido proprio per. Quindi solo volevo appunto sapere voi che come. Cosa pensavate? Queste cose che realizziamo a scuola significa che insomma un tipo di cultura che portiamo tra gli studenti, ogni anno ci passano davanti tanti studenti. Tra l'altro vi faccio un brevissimo resoconto della settimana scientifica. Sono stato a parlare con Morellato e Malloggio, lui l'ha conosciuto nell'ambito della scuola delle rinnovabili. Io non lo conoscevo, ragazzo, fantastico, splendido, sì, pieno di entusiasmo, giovane, lavora nell'azienda del padre. E quando gli ho parlato la settimana scientifica che vogliamo farla sulle rinnovabili, sulla presentazione, lui era molto contento, ma solo posto un problema. Pare che alla fine del mese di marzo, le ultime settimane di marzo, loro sono impegnati con l'Expo, cioè con un Expo che fanno a Spedaletto dove fanno vedere tutti i sistemi tecnologici, relativi alle rinnovabili, per cui dice no, non ci potete coinvolgere in queste due settimane. Allora per me diventa un problema, nel senso che devo chiedere, anche a te tra l'altro come presidente diciamo del gruppo della settimana scientifica all'Alto Scienze, perché di anticipare le prime due settimane di marzo, o la prima o la seconda a questo punto. Sempre che la cosa si può fare, perché loro ci possono portare questi due stand, se si fa, infatti oggi ne ho parlato già con la Grazia. Con la Grazione. Sì. La Grazione mi ha detto, ah, chiedi anche a Marilena, però mi sa difficile, non si voleva fare la settimana quella successiva, ma la settimana successiva loro sono impegnati là. Poi lui lo vorrei portare a scuola, incontrare gli studenti, non solo per raccontare come devono presentare, ma lui fa tutto un discorso sulle rinnovabili, no? Con una presentazione. Questo solo che con una tua classe, con due con classi, due, vabbè, una quarta classe, vabbè. Sì, gruppi classe, poi sì, i ragazzi che si occupano dei vari saranno. Vabbè. E lui mi ha detto, cioè, è stato lui a porre la questione. Dice ma mi danno qualcosa, cioè mi viene riconosciuto. Ho detto ma ora chiedo, e oggi ho chiesto alla tesi. Ecco, però hai fatto bene. Sì, ho chiesto, dice no, se viene deve venire a gratis. Lui mi aveva anticipato che anche gratis sarebbe venuto, però insomma. Sì, che ritorno. Vabbè. Se non che gli ho detto, ma non ci sono dei soldi proprio per la settimana scientifica? Dice sì, ci sono, certo sono pochi, però si potrebbe prevedere anche una parte di quei soldi. Io pensavo di far venire lui e poi un ricercatore qui, è uno che si occupa di oceani, come si dice, oceanologia. Sì, è un ricercatore che conosco bene, Giovanni qualcosa, che ci siamo sempre trovati, poi vi dico come si chiama. Ma insomma lui è giovane, si occupa di riscaldamento climatico, in particolare con particolare riferimento alle acque degli oceani, no? E lui lo farei venire a incontrare gli studenti. Sempre in quella settimana. Sì. E che dovrebbe funzionare anche da orientamento. Sono ragazzi di quarta e di quinta e dirgli, praticamente il messaggio che gli deve arrivare a questi ragazzi è tutto sta cambiando molto velocemente nel mondo e appunto quali sono i nuovi mestieri, di cosa è bene occuparsi, di cosa è meglio lasciar perdere, non vi occupate di centrali nucleari. Né di combustibili fossili occupati senza di dirglielo, ma facendo no, ma anche dicendo sì, no, questo insomma vabbè, insomma vabbè, lei mi ha detto sì, può venire chiunque, ma tutto. Senza quindi è tornato, non abbiamo soldi, sì, lo vedo di tornare e se non riusciamo a fare queste prime due settimane dovremmo fare a meno di loro, che tra l'altro lui mi ha detto, Valerio si chiama, mi ha detto, dice guarda, insieme a noi sono occupate tantissime altre aziende che si occupano di rinnovabili, per esempio quelli che fanno la coibentazione, i materiali di coibentazione. Comunque questo tanto si ridiscuterà ora, insomma, nella prossima settimana. Voi ci avete una riunione? Io ho mandato delle email, si pensava addirittura martedì di definire un po' meglio. Non ho un'idea, contatta Sartori, il professor Sartori, mi sa che era un buon professore universitario delle superiori che ora è in pensione, e lui è molto appassionato all'aspetto didattico sull'energia. Con qualche esempio semplice di fisica spiega l'entropia, spiega di quanto sia ancora conveniente la benzina. Ci ha fatto un'osservazione molto generale, tipo con un litro di benzina fare quanto fa 25 km e uno a piedi non se li fa, diciamo. A lui conviene anche pagare 3 o 4 euro, perché a piedi come fai? Poi ha fatto un calcolo anche per quanto riguarda i meccanismi di trasporto o tipo per costruire le case, no? tipo quei motori a gasolio, che tu ci metti un litro di gasolio, e lui ha calcolato quanto peso riescono ad alzare, e tu lo trasporteresti nel cesso, cioè, i sindacati ti farebbero arrestare. Queste considerazioni sono fanno capire che tipo. Ma quanto pensavo un altro aspetto, perché c'è un concorso che si chiama 1000 scuole, 1000 tetti fotovoltaici, che è un concorso ministeriale. E io ho parlato proprio con Valerio di questo. Siccome lì la scuola nostra la vogliono addirittura demolire, allo stesso tempo stanno spendendo un sacco di soldi per il tetto. Sì. No? Allora, proprio sulla scia di quello che diceva lui, uno potrebbe fare dei conti di massima, perché anche Valerio mi diceva che scuola è parecchio difficile se uno deve scendere nei dettagli, però i conti di massima si possono fare. Che tipo? Uno dice, quant'è la copertura, quanti metri quadri, come è fatto il Buonarroti? C'è un sacco di superficie che è possibile esporre al sole, no? Allora, diciamo, il ragionamento potrebbe essere questo. I ragazzi fanno dei conti e dicono ci sono 2000 metri quadrati di superficie esponibile al sole, allora ogni 10 metri quadrati fa un kilowatt, potremmo ottenere 200 kilowatt dal sole. Questo che vantaggi avrebbe? Siccome noi sappiamo che quando piove lì non si riesce a fare lezione, perché il tetto fa talmente, lo scruscio è talmente, fa un rumore, non sa bene. Questo potrebbe essere un vantaggio collaterale, cioè quello, se ci metti il pannello, diminuisci sicuramente quel problema. Anche questo. In più produce energia da energia elettrica, non devi cambiare l'impianto elettrico, perché l'energia la riversi direttamente in rete per fare un conguaglio. Poi uno potrebbe dire, ragazzi, ma se sostituiamo gli infissi cosa succede? Cioè da doppi vetri mettiamo tripli vetri, oppure se sostituiamo la caldaia che produce acqua calda con un impianto di cogenerazione, e tutte queste spese di intervento in quanto tempo, e che ne so, fare i conti durante i 3 mesi estivi che non c'è nessuna scuola, sono in vacanza, la scuola proprio in quei 3 mesi lì è chiusa ma produce energia, e magari produce un surplus di energia rispetto ai consumi, insomma, ecco, in quanto tempo rientrano le spese, ma è giusto abbattere un edificio di questo tipo, non si potrebbe trasformare una centrale di produzione dell'energia dentro una città, cose di questo tipo. E insomma, che conti di massima, per quello ti chiedevo, conti di massima li potrebbero fare gli studenti. Sì. Ora, alla scuola delle rinnovabili, la giornata delle presentazioni, c'era un ingegnere che raccontava delle difficoltà che lui aveva trovato nel contattare molti dei proprietari di capannoni industriali. Ti ricordi lui? Dice che noi vorremmo utilizzare per ricoprire di pannelli fotovoltaici, i capannoni industriali che sono qui nel comprensorio Pisano. Sì. E loro sono in grado, se capito, di fare i conti, cioè di utilizzare questi tetti di questi capannoni per produrre energia. E io pensavo di coinvolgere loro nel fare questi conti che riguardino i Buonarroti. Chiaramente i conti li fanno loro, ma poi ne facciamo una versione semplificata per gli studenti, che gli studenti possono capire e presentare. Però, come facciamo a rintracciarlo? Tu mi hai detto che questo è facile da contattarlo perché lui è di Pisa. Ma per quanto riguarda il Buonarroti si può fare un calcolo anche dal sito di Morellato. C'è un piccolo software in cui si mette la superficie, l'esposizione al sole, l'albedo, eccetera, eccetera. E si tira fuori, a seconda del fabbisogno voluto, quale superficie ci vuole. Quindi uno in grosso modo sa come la superficie di tetto che si andrà a fare, questo si può fare. Si può invitare anche i ragazzi a andare su questo sito e allenarsi un po' per i conti. Questo si può fare. Questo sta bene, se lo recuperiamo, sì, ecco, sì, questo lo devo fare, è una cosa che mi ero proposto. A Valerio gliel' ho parlato, lui mi ha detto. Lo sai che ha fatto quando gli ho detto? È andato su, come si chiama, Google Earth, si è andato a mettere sulla scuola di Pisa. E poi con il righello ha misurato la superficie. Madonna, quanta superficie! Poi ha visto l'inclinazione, ha cominciato, dice però è difficile, non è una, cioè, sembra semplice, ma se si devono fare le cose per bene, dice, diventa molto complicato. In ogni caso lui mi ha anche detto, dice, noi potremmo coprire una parte, per esempio la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, però una scuola del genere si può intervenire su vari livelli, con generazione, infissi, produzione direttamente di acqua calda. Queste cose tu le hai dette alla riunione di... No, queste no. Hai detto le tue proposte? Sì, sì, queste no. Poi c'è il nuovo regolamento edilizio, hanno fatto, anche il regolatore, anche lui, bisogna vedere cosa comporta. Penso che sia abbastanza complesso mettere i pannelli tipo Los Angeles, o che Pisa, non è il centro. No, certo, nel centro storico no. Ma lì non è, Buonarroti non è il centro storico. E poi lì via Colombo ci sono. Via Betti. Anche Betti. Non è il centro storico e poi non è mica un edificio. Prima è un edificio recentissimo. Degli anni 60. C'è una tipologia che sembra proprio fatta. Bisogna vedere chi è la proprietà del comune. Nella provincia. Penso la provincia, sì. Quindi bisogna chiedere alla provincia. Sì, ma appunto lì diventa proprio una questione, siccome la provincia lo vuole, dopo aver speso, non so quanti sono, 2 milioni di euro per rifare il chiavetto, e poi lo vuole abbattere tutta la struttura. Cioè, perché ha dovuto spendere con urgenza questi soldi? Ci sono sempre lavori in corso, perché ci pioveva dentro, nello stesso tempo c'erano gli studenti. Quindi siccome costruire un edificio nuovo di sana pianta o destinarci da un'altra parte, la scuola è una cosa complessa, non sapeva come fare in tempi utili, intanto sta spendendo questi soldi. Però non hanno pensato appunto di farne, cioè hanno fatto un intervento così, sì, veloce, più veloce possibile, sistemare il tutto. Continuano a spendere senza risolvere. Perché riflettere, però, se c'è il modo di non riflettere. L'idea però ora è quello di abbatterlo e fare però proprio un'altra cosa, fare degli appartamenti, e trasferire la scuola, non so dove, a Cisanello. Quindi dicevano la nuova sede, dicevano davanti all'Esselunga, in quell'area lì, davanti all'Esselunga. Ah, sì, io avevo capito addirittura in via Bargagna, non lì. Non lo so. Quella è via Bargagna, ecco, sì, davanti, ho capito. Sì, allora sì. C'è andato sua figlia. Già, allora ci andrà mia figlia. Fai vicino a Ferro. Fino al liceo può stare in Italia. Sì. Dopo la mando via. Dopo la sì. Quindi riassumendo. Riassumiamo, vediamo. Ci sarà questa settimana, queste due settimane, quanto sono? È una settimana. Una settimana tutto. Con tutti i problemi. Con tutti i problemi. Perché il problema più grosso è quello del collocamento temporale, altrimenti dobbiamo fare una versione ridotta. Okay. E nel caso in cui... Scusa, comunque tu quindi vorresti, fammi capire in modo... Sì, sì. Domani arrivo più preparata. Seconda settimana, terza? La seconda settimana di marzo, quella più lontana possibile. Però la seconda settimana di marzo. Tra l'altro io il 17 poi devo partire e andare in gita. La terza non si può fare, dal 17 al 21, perché c'è proprio scritto sulla circolare. Non deve coincidere con le gite, a meno che la presa che devi spostare la gita. Allora, insomma, vediamo. È tutta una situazione. Vediamo un po'. Vabbè, poi di questo se ne parla. Vabbè, sì. Comunque, vediamo. Dicevi, scusa Roberto, se ti ho interrotto, ma volevo capire una cosa. Se ricade alla fine di marzo, ci sono queste due difficoltà, nella terza settimana alla fine, perché non c'è né Morellato né lui. Quindi tu ti occuperai del fatto di chiedere alla preside su questa storia se si può spostare? Sì, non è tanto chiedere alla preside, è un accordo che prendiamo, hai capito, tra di noi. Dipende anche dalla disponibilità degli altri. Degli altri, sì. Sì. Perché ci sono due gruppi, cioè il gruppo di scienze e poi il gruppo di matematica. Matematica e poi magari anche altri colleghi di filosofia, hai capito, per alcuni, però i due gruppi sono questi. E ora diciamo quel periodo lì, diciamo i primi 15 giorni di marzo, è visto come troppo vicino. E dopo non si può fare perché il 4 è Pasqua, allora prima di Pasqua. Perciò si era pensato all'ultima settimana di marzo. L'ultima settimana. Comunque si può sostituire Morellato. Con chi? Perché Morellato mi diceva, dice, oltre a noi sono impegnate molte aziende qui locali, tutte impegnate lì all'Expo, capito? Ma tu volevi proprio fare un'esposizione all'esterno? No, io volevo due stand, siccome li ero visti fare una volta lì alla Leopolda, che loro fanno vedere il pannello, lo fanno vedere. Poi danno materiale informativo e quindi adatto a ragazzi di quell'età? Sì, cioè i ragazzi lui li preferirebbe a interloquire con il pubblico degli altri studenti e dei genitori quando vengono. Correlato è bravo, un ottimo. No, potevo, se no si poteva fare. Certo uno potrebbe forzare le cose, cioè io potrei tornarci e dire, ma non è che lo stesso potresti organizzare, magari in scala, su scala minore, qualcosa anche da noi, mentre c'è l'Expo. Cioè già lo devo far venire senza soldi. Questa cosa? Non so, certo uno. Vabbè, allora ci pensiamo. Vediamo. Quindi questo, continua con. Col tuo. Con la sì. Volevo dire questa cosa. Diciamo, mi avete fatto vedere una buona idea, tipo iniziare a sensibilizzare i ragazzi che devono stare in un determinato luogo da 5 anni, diciamo, sulle condizioni, la scuola, diciamo, dal punto di vista energetico, per quanto riguarda i rifiuti. Tipo fare la raccolta differenziata scritta nelle scuole, far fare i calcoli come ha detto giustamente lui, vedere tipo realizzate i primi vetri, la coibentazione, pannelli solari, pannelli termici nelle scuole, cioè li indottriniamo bene, cioè, a scuola, cioè vedono, toccano con mano l'utilità di queste scelte. Per me sarebbe una buona cosa. Questi sono gli strumenti, spazi necessari. Però rimane una difficoltà. Che linguaggio utilizzare? Con gli studenti. Con gli studenti. No, perché queste sono cose che in genere si fanno all'università, all'ingegneria elettrica, per quanto riguarda i calcoli, per quanto si risparmia, cioè i costi, l'impronta ecologica, cioè ragazzi al primo anno, al secondo anno sono in grado di comprendere tutti questi meccanismi, il fattore del riscaldamento globale, sanno leggere un grafico in cui sulla TX c'è il tempo e sulla CY c'è, che ne so, il riscaldamento globale. Uno questi, quando si mette lì a insegnare queste cose, certo, è problematico. Sulla CY c'è la concentrazione di anidride carbonica. Misure di concentrazione o ci sono, parti per milione sanno cosa significa. Esatto, i suoi sono anche più grandi, mi sembra, no? Sì, così come. Mentre i miei sono piccoli, però io faccio un'altra cosa. Sì, quando io faccio fisica, se si parla di coibentazione, gli esercizi che faccio fare sono proprio sulla coibentazione, cioè si utilizza la legge di propagazione del calore, no? Dice, lì c'è si chiama la conduttività termica, si può definire la resistenza termica, io li faccio fare proprio gli esercizi e poi il compito in classe, alla fine loro devono dire dopo questo intervento si risparmia tot euro in tot tempo, e quindi devono anche essere in grado di fare i conti, e non è difficile, certo, questi sono conti abbastanza elementari, i tempi di rientro della spesa, dopo quanto tempo rientra la spesa, e questo non lo può fare con una lampadina. Oggi ho corretto il compito, ho fatto quelli di quarta F, che sono linguistico, hanno scoperto che invece di usare la lampadina incandescente, usi un'altra, si risparmia 63 euro dopo 6.000 ore di funzionamento. Chiaramente sì, non si scende nei dettagli. Tu per esempio saresti d'accordo a tipo creare un vademecum, un libricino in cui raccogliere una serie di esercizi in ordine di difficoltà a seconda del livello medio della classe? Ottimo. In cui raccogliere tutte quelle tue esperienze? Non solo raccogliere, ecco, vedi, ma magari metterli poi nel sito della scuola. Cioè disponibili nel sito della scuola. Sareste disponibile anche tu? No, dico, la scuola ha un sito. Sì. Mettiamo questa cosa qui della settimana scientifica, no? Che i ragazzi fanno dei conti relativi alla scuola. Allora uno li può documentare tutto questo lavoro e mettere nel sito della scuola a disposizione di altri insegnanti di altri corsi. Io ho un piccolo blog di strumenti didattici per la fisica, la matematica. Tra l'altro ho chiesto alla Forte, dico, ma mi ce lo fai un link? Ancora non mi ce lo fa. Ora mi rivolgo alla Paola. Forse no, che Paola Pagliariccio? Sì, lei magari. Sì, già posso. Sì. Vabbè, comunque, questa sì. Ma tu perché non meriti a fare questo? E perché? A fare i conti. Noi ti chiamo senza soldi, quindi... Però, ma invece perché non fai un libricino più che lo pubblichi poi? Perché non pubblichi? Altro che senza soldi. Ma facciamo, lo pubblichiamo io. Appunto. Ci fai i soldi. Invece di... Sì, è vero. È il momento giusto questo. Si può fare. No, io che cosa? Io che cosa? Già avevi portato il calcolo dell'impronta ecologica. Quello. Come lo però quello che io faccio, aspetta, quello che io faccio. E quello può essere un altro capitolo di questo libro. Sì. Lo facciamo pubblicare a uso e consumo di tutte le scuole d'Italia. Senti un po'. No, quello che faccio io per la settimana scientifica. Che più o meno, su cui già ho lavorato un po', poi non so se nel frattempo maturano altre cose, è questo flusso di energia e come si dice, riciclo della materia in un ecosistema, questo è il discorso. E non ho lo schema, presenteranno i ragazzi sì, delle esperienze anche di laboratorio. Su questo, perché alla base che cosa c'è? Fotosintesi e respirazione, poi l'idea, la materia in pratica si ricicla, è questo che viene, e l'energia no, per cui c'è nei vari passaggi una dispersione sotto forma no, di calore, quindi l'aumento dell'entropia, insomma questo è il tema conduttore. E come, che cosa faranno loro? Dunque, si parte proprio da che cosa serve? Serve la luce, c'è una piccola esperienza, tante piccole esperienze, in pratica sulla fotosintesi e sulla respirazione. La clorofilla, aspetta, si vedono anche i cloroplasti al microscopio, la ciclosi dei cloroplasti, poi si vedrà lo spettro di assorbimento della clorofilla, un ragazzo farà questo. Insomma, sono tante esperienze in serie. Con una mappa concettuale che spiega questo discorso. Ora detto così, però l'idea è questa, il flusso di energia e poi come la materia viene... I ragazzi li vedi partecipi, sì. Come reagiscono? Come reagiscono? Bene. Lavorano in gruppo? Dunque, lavorano in gruppetti piccoli, ora per questa cosa lavoreranno in gruppi piccoli, perché poi queste sono esperienze che noi abbiamo già fatto durante l'anno e ora ognuno adotta, diciamo, un aspetto del problema, no? Serve la luce e allora, prima di tutto, ora lo riscopriranno loro, lo stanno riscoprendo loro, perché abbiamo deciso, abbiamo fatto insieme questa mappa concettuale, un po' forzata perché appunto, come dicevo, io non sono molto maieutica, questa, quando vedo che non arrivo allora in calzo, vabbè, comunque imparerò poi dipende, insomma ci sono anche problemi di tempo, di tutto, quindi alcune volte devi forzare un po'. Però è come se questo schema l'avessero fatto loro, hai capito questa? E ora ognuno svilupperà una parte di questo schema, quindi non so, cioè qualcosa va messa ancora a punto, la produzione di CO2 con la respirazione, che dobbiamo insomma evidenziare, abbiamo dei semi che germinano, insomma siamo un po' costruendo questa cosa, però è molto naturale, cioè hai capito, biologico-naturalistico il tutto, dimmi. Per me è una cosa fondamentale, rimarrà qualcosa di questa esperienza? Ce la documentate, fate qualche filmato? Che cosa rimane? C'è un giornalino in cui pubblicare questi risultati? In passato c'era il giornalino che sono stati pubblicati. Rimarrà ad esempio... Che cosa? Le esperienze rimangono, loro le hanno fatte, le hanno sul quaderno, tutte. Rimarrà questa mappa concettuale, hai capito? Guardala su internet, perché i ragazzi hanno pure bisogno di sentirsi apprezzati, di l'anno scorso. No, ma si lavora molto sulla loro gratificazione. Fatto questo, sì. Ho fatto un video per sempre vedere. Sulle Torri Gemelle, l'anno scorso ho fatto la settimana scintilla sul crollo delle Torri Gemelle, e abbiamo prodotto un video. Che ho visto poi, dopo che mi hai detto, ho visto tutto. E ci sono loro, durante la presentazione, ci sono insomma le discussioni, eccetera, eccetera. Quest'anno ho cominciato a farlo anche, quando siamo andati al Portale a Firenze, loro hanno fatto una video intervista agli architetti che parlavano di ecosostenibilità delle metropoli, le condizioni dell'ecosostenibilità delle metropoli, hanno fatto una video intervista. E tutte le varie fasi le documenteremo così, con l'idea poi di fare dei montaggi e metterli su YouTube. Sì. Chiudiamo così, io direi anzi di farne, visto che ora abbiamo anche delle fasi operative, ognuno di noi dice cosa farà nella settimana, cioè entro la prossima, cioè gli impegni che si è assunto, quelli più a lunga scadenza e quelli più a breve scadenza. Ognuno di noi cosa farà? Una bella domanda. Te cosa c'è da fare? Se non ti viene in mente niente, ti Allora, quindi me lo so segnato un po'. Chiedere a Boschini se ci sarebbero problemi per proiettare il video. E poi chiedere anche a Boschini se è disponibile per fine aprile quando è il Pasqua? Di organizzare... Di fare con lui la festa della primavera. Di organizzare questa proiezione, lui come se l'immagina. Dovremmo istituire la festa della primavera. La festa della primavera, c'è qualcosa anche a scuola? Quindi, la Guglione di relazione con Boschini. Quindi Boschini, se come ha fatto, se ha fatto di racconti anche, vi racconti anche questo schema di presentazione. Sì, parlo con Boschini. E senti lui cosa ne pensa e soprattutto che calendario dei suoi appuntamenti. Perché sulla base del calendario dei suoi appuntamenti, poi mi passi la palla a me che vado a chiedere al concetto Marchesi. Questo è troppo poco però, ti alzo ciò sempre. Mi reso conto di questa riunione. No, vabbè, su questo sarai aiutato, no, hai ragione. Quello della settimana scorsa avevo previsto di farlo, poi è rimasto. L'ho fatto. Poi che c'era più, mi sono scordato? Che dovevi fare tu? Scuola di crescita. Tu potresti fare una cosa. Ah, autoformazione sull'argomento decrescita e temi satellite. Avevo in mente di preparare, creare una pagina apposita qui della wiki del nostro sito, uh-huh, in cui metterci tutti questi documenti, ma già c'è quello relativo alla documentazione, ci metto degli articoli, tutti gli articoli che sono apparsi su carta, li metto in formato zip così uno si li scarica. Ah, e di La Touche, quello che ha pubblicato La Touche su carta. Carta è una rivista di Firenze che si occupa di tematiche sociali. Ma noi tra l'altro tutti dobbiamo imparare, tutti possiamo accedere alla wiki. Ecco, grazie che me l'ha fatto ricordare. Scriverò una piccola guida, saranno 10 righe, tu lo sai, non è difficilissimo non scrivere su wiki. Ho dato 10 euro a Wikipedia, hai visto che hanno fatto la raccolta? Ah, sì, hai dato? Sì, bravo. Hanno raggiunto poi. Hanno raggiunto, hanno raggiunto un sacco di soldi. E poi per la prima volta nella mia vita, ti giuro, sì, perché non ho dato 10 euro a loro e poi ho dato 10 euro ad Amnesty International. Ah, sì. Sì. Pochi. Comunque in pochi ne parlano, comunque la cosa più bella di Wikipedia. Vabbè, è anche bello il fatto che sia la più grande enciclopedia esistente, ma il software. Cioè il software è liberamente scaricabile e lo puoi installare sul tuo dominio e utilizzarlo. Però una volta devi raccontare a tutti, non so se è facile per noi andare. Due righe sono. Scriverò queste due righe. È lo stesso che c'è. È lo stesso di Wikipedia, Ecopedia o. È uguale. È lo stesso software, guarda. Sempre Pedia. Scriverò queste 10 righe, magari in qualche link della, di questa qui, e su come si usano, è facile, gli elenchi puntati, basta un asterisco, ci mette. A capo ci va da solo, per creare una nuova pagina, tipo tra doppie parentesi quadre, scrivi per esempio Francesco Cappello, doppia parentesi quadre, salvi la pagina. E poi quando la salvi ti compare la scritta in rosso, significa che tu ci clicchi sopra e automaticamente ti crea una nuova pagina. Sì, ma non ti sto seguendo. Questa è una cosa che o ci fai una cosa scritta. Ti scrivo una cosa, scrivo una cosa scritta su sta cosa. O ce la fai vedere. E lì dice, qui sarebbe uno spazio in cui partecipare, no? Cioè creare dei progetti e poi durante la settimana andare lì, modificare, aggiungere qualcosa. Qualcosa di meno fuggevole della mailing list, perché li metti, arrivi di mail, poi altre 20 di chi non c'entra un cavolo, e chi la ripesca poi l'altra. È brutto, invece qui tu piano piano, cioè, è una specie di diario. Sì, io fino a quando non si fa, sembra impossibile. Poi, no, però... Wikipedia è nata capisco. Così, non vedo perché non debba essere... Sì. C'è tanti io lì, no, chiunque. Poi che altri compiti hai? Vabbè, metto la registrazione audio. Sì. Parecchi. Vabbè, vai io la bobino. Cioè, devo andare a Firenze, sì. No, dopo domani. E ci fai il resoconto. Dovrò coinvolgere qualcun altro. E l'ultima cosa, se ti riesce, di contattare Beniamino, perché io non so bene come dirgli chi è, magari lo faccio anch'io. Sì, contatto Beniamino allora. Per trovare quel tizio lì che parlava dei tetti, dei capannoni. Sì. Io devo entrare in contatto con lui, insomma. Ma lo faccio anch'io, lo facciamo tutte e due, insomma. Contattare Beniamino. Andiamo avanti, te? Io che faccio? Non ti ricordi, se lo ricordiamo noi. No, me lo ricordo. Vabbè, parlare con la Volterrani per la limonaia. La limonaia. E poi che devo fare? Poi tutto quello che ti riguarda la situazione scientifica che ti perciò, delle cose. Sì. Sì, vediamo un po'. Anche sugli spazi, sai che hai detto sul limonaio. Sì. Poi che altro? Che cosa? No, te poi non c'è niente altro. Ma insomma, è già tanta roba. No, vabbè, vedo un po'... Sì. Di... Perché la settimana scientifica, poi dico, non è solo su questo, hai capito? Ad esempio ci sono altre colleghe che fanno, non so, il cervello, insomma, altre cose. Quindi c'è da noi inseriamo i nostri temi, diciamo. Io sì, faccio questo qui. Come e poi il determinismo biologico. Come quell'altro di cui si parlava, c'è studiare la crescita. Ah, questa cosa qui sì. E poi la sì, io ho scritto qualcosa, no? Sì. La crescita. Che ecco, è una cosa che voglio così scrivere, mettere a punto, poi non so quale sarà, dicevo, l'utilizzazione, ma è una cosa che può... No, mi è piaciuto perché avevo tante idee, no? Tutte un po' scollegate, così invece ho trovato il, diciamo, l'incipit, il... Vabbè, e poi dopo ve lo leggo. Ok. Allora passiamo a Laurence. Laurence, te? Io ho un sacco di cose da fare, tipo, ora le 9. Di andare. Allora, dai, fai il tuo. Io devo dare i dati a Roberto per andare a Firenze, se non ci va. Sì. Se te la sbrighi un poco. E però è interessante. E poi mi devo autoformare. No. Ma come si chiama? La cosa ci ha raccontato all'inizio? Green Energy. Quello devi continuare a occuparti. Che l'ambiente assieme alle tre direzioni. Se riesci a raccogliere altri dati, altre cose sì. Su questo. Quella storia lì. Tanto ritrovare le mie poche note. Continuare a seguire questa cosa perché dura nel tempo, no? Certo. Fino a luglio. Comincia a luglio e nel frattempo c'è da lavorarci. Poi sì, l'autoformazione quello ci riguarda tutti. Allora, poi anche Bernardelli, la contatti tu. E comunque l'autoformazione è Beatrice Bardelli. Tu la conosci la Beatrice? L'ho vista una volta ma lei non mi conosce. Ah, Beatrice la contatto io. Beatrice la contatto io. Una volta la invitiamo. Lei, se la invitiamo, occuperà tutto lo spazio. Poi quello non è la pubblicità. Che cosa che diciamo? Serve a noi per ricavare. Sì, anche se lo pubblichiamo per ricavare questo poco. Poi che altro c'hai qui? Troppo poco. A trovare i soldi per pagare l'affitto a fine del mese. No, però potresti cominciare a individuare interrogativi per l'autoformazione, visto che hai fatto cenno. Cioè, diciamo, interrogativi su cui lavorare tutti sull'autoformazione. E li cominciamo a mettere in un angolino di altervista, quindi cominciate a pensare a una serie di interrogativi su cui lavoriamo per autoformarci intorno ai temi. Io mi sono ascoltato per una cosa brevemente, cioè fino a che punto da filosofia è diventata teoria economica, perché le altre due sono ideologie che sono stratificate, marxismo, capitalismo, vari teorici si insegnano nelle università, cioè fino a quando ci si può parlare di filosofia e quando si è iniziato a studiare proprio gli effetti anche a lungo termine sulla vita delle persone, sulla politica, sono fatti i calcoli, magari qualche abbozzo di previsione. No? Poi c'è anche questo, lui ha mandato, ti ricordi quando hai mandato in rete quell'articolo di Pallante, in 10 pagine erano, sì. Che era una bellissima sintesi, io me la sono letta quella. Tu potresti usare quella, magari lui te la rimanda, No, ce l'ho. O se ce l'hai. E da lì trarre, anche da lì, diciamo, trarre gli interrogativi importanti, insomma, utilizzarla come traccia, ecco. Anche questo, potresti fare questo. Ma cioè, insomma, c'è una teoria economica organica per la decrescita. Io non credo. Trovato nulla al riguardo. Secondo me sì, c'è Georgescu Rongen, sì. La bio, come si chiama, la bioeconomia. La bioeconomia. Sì. E a cui fa riferimento soprattutto Bonaiuti, l'altro movimento della decrescita. Lui è un economista e fa molto riferimento. Molto bene. E anche Latouche, credo. Georgescu Rongen. Però io ne so poco. Proprio come teoria economica. Sì. Ho una mia idea che so che ci sono dei ricercatori che lavorano sulla teoria economica dell'altazionalità. Ah. Anzi, c'è un gruppo che sta su Facebook, però in inglese, non ci capisco niente. Cioè, difficile per me leggerlo. Loro sono dei ricercatori che gruppo, sono... È un gruppo che sta su Facebook. Come si chiama? Ti mando il riferimento perché... Comunque, teoria stazionarietà economica, però la stazionarietà non nel senso di staticità, stazionarietà nel senso di equilibrio dinamico, un po' quello ecosistemico, diciamo organico, ecosistemico. Però questo sarebbe bello, riuscire a fare un appuntamento, che ne so, a economia e commercio, in cui invitiamo un ricercatore in questo campo. Ma questo vabbè. Luzzati aveva promesso di darci le slide. Tommaso Luzzati, che insegna qui a insegna economia, che insegna economia ecologica, cose del genere. E lui nella scuola delle rinnovabili ha fatto un bel intervento su proprio la storia della decrescita, e i limiti del pianeta, il degrado ambientale. E c'è stato il suo intervento, e tra l'altro c'è anche la registrazione del MP3. Quindi puoi contattare anche lui volendo. E tra l'altro tutti quei materiali. Sulla teoria economica. Tutti quei materiali ci avevi detto che. Ancora li vedo fermi, quelli del gruppo Creta. Ah, non te l'hanno messo a disposizione. No, ancora no. Ah, ho capito. Sì. Ho soltanto le slide che magari potrei presentare la settimana a marzo, in caso non riusciresti a coinvolgerlo, le slide di Morellato. Ok. Ah, tu c'hai le slide di Morellato. Va bene. Io personalmente sì, devo fare tre cose della settimana scientifica, occuparmi dei rapporti con Valerio, poi se riusciamo a ristabilire questo contatto con questo esperto. Cioè fare questo lavoro sul tetto della scuola, sì. Intorno ai conti, diciamo, e poi eventualmente contattare per la sede. Senti, quindi comunque quella proposta che facevo con quella email lì, quella sulla no, non ha senso. Quale? Dei gruppi, la prima. Perché sarebbe una cosa ancora in più, hai capito? La primissima, quello sul determinismo biologico, no. No, il determinismo no, quello era allora una cosa che... cioè, sfruttare questa opportunità, hai capito, dei gruppi di interclasse, e qui magari ci potevi andare tu, perché questo era un modello di iscrizione, hai capito? E trovare, questo era un titolo che avevo pensato io per non andare proprio sulla decrescita, ma poi non so. Per cui tu... Io questo... Però in realtà lo fai già. Lo sai quando lo faccio? Quando c'è da fare le sostituzioni? Faccio dei laboratori di un'ora nelle classi in cui capito, su questi temi. Sì, lo so. Sì, faccio questo in genere. Vabbè, allora... Tra l'altro io voglio fare dei laboratori intorno alla città, cos'è una città, affrontando diciamo in maniera anche collaterale questi temi sì. Qui. Sì. Vabbè, insomma non sarebbe una situazione. Magari questo una ci pensiamo, da... però perché sarebbe sì, una cosa in più, hai capito? Fase, no. Sì. Come si fa? No, vabbè. No, però perché io preso. L'avevo proposto per la scuola e pensavo che tu potessi sfruttarlo. Io pensavo questa cosa qua che era dentro i materiali che c'è. Nel 10. Ma qual è questo? Sempre era Green Energy? E questo qua, con il cavolo? No, no, per me l'hanno dato in quel momento lì, ma è un'altra cosa. Ah. Energia 2010. E si fa... Sono tre giorni. C'è un sacco di roba. Infatti. Da qui. Non me lo ricordavo. Praticamente ora. E qui ci devo portare. Quindi, vabbè. Quindi ci sei qui. Quindi c'è stato anche a scuola. C'era anche a scuola. Questo lo puoi lasciare. No, io non l'ho visto. Cioè. C'erano queste cose a scuola. Senti, questo non lo puoi lasciare? No. Sì, ma lo ritrovo su internet. Te lo ritrovo. Te lo ritrovi. No, perché ci porto, la mattina ci porto qualche classe. Come si chiama? Energia 2010. Energia 2010, 15, 16, 17. Ad esempio poi l'Anzo l'ha dato a noi. Senti, c'è anche un sito qua. Fisica, a tutto ambiente. A tutto cioè l'energia .org. E io li porto anche... mi pare sia il 27 marzo al CNR, c'è un incontro con un esperto, sì. Ma quello è il pomeriggio. Ah, qui mi scelgo qualche incontro che si fa la mattina e ci porto, faccio, chiedo, come si chiama, la lezione fuori sede. Ah. Tanto l'aeroporto da noi è vicino, ci si può andare a piedi. Mi scelgo qualche incontro e li porto. Abbiamo posto? Di solito faccio l'audio e poi vediamo se sì. Riusciamo a fare un resoconto. Posso fare tu? Vieni. Si parlava di quel climatologo. Un climatologo che diceva che l'effetto serra non esiste. Ah sì, quello su Corriere della